sta per uscire. Laboratorio 4. Certo. Laboratorio 4 è un CD, e in questo caso un doppio CD con della musica. Sì, dai. Cioè, e sopra ci sono i risultati dei vari esperimenti fatti qui nel, dai. Nel mio laboratorio, e quindi possono essere brani. Possono essere brani con diverse sonorità e magari possono esserci brani che non appartengono allo stesso genere musicale, se di generi musicali vogliamo parlare. M2O, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Si sente? Sì. Gigi D'Agostino. Si sente? Sì. Si sente? A cosa? Nothing, Passo Folk, artista Lento Violento Man.